Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte 18. Dopo la rivolta nello speciale, dopo che siamo stati sistemati in quel modo nelle celle vuote al pian terreno del carcere, distrutto, da quel momento in poi non ci sono stati più pestaggi di massa e si è cominciata la discussione all'interno di ogni camerone su quello che era successo. Ovviamente le posizioni erano molto diverse, ma le discussioni più accese sono venute fuori in un secondo momento, perché nei primi giorni tutti quanti badavamo a leccarsi le ferite, che cominciavano a uscire gli acciacchi delle botte, e più che altro il clima era quello di una infermeria da campo. Intanto ci avevano concesso i giornali, e quello che si leggeva sui giornali era assurdo, veramente assurdo. Non c'era niente di vero, sembrava che non fosse successo niente, tutte le notizie erano distorte, e per lo più, anzi, completamente false. Per i giornali l'operazione dei reparti speciali era stata assolutamente incruenta, si era svolta senza nessun problema. Sembrava che avessero distribuito 4 scappellotti e tutto si era risolto nella maniera più pacifica. Noi abbiamo cominciato a fare pressioni per avere dei colloqui coi familiari, che era l'unico modo per rompere questo blackout della stampa su quello che era veramente successo. Alla fine ci hanno concesso qualche colloquio simbolico di appena qualche minuto col vetro divisorio. Il risultato è stato di riuscire a farci vedere per qualche minuto dai parenti dietro i vetri divisori, in modo che i parenti vedevano come eravamo conciati. Non c'era nemmeno bisogno di parlare per fare capire come stavano le cose, come erano andate le cose. Siccome le uniche cose che avevamo erano gli indumenti che avevamo addosso al momento dell'irruzione dei reparti speciali, i parenti ci hanno visto con questi vestiti coperti di sangue, le ingessature, le ferite, i tagli, le botte, eccetera. E questo è stato sufficiente. Con questi colloqui, insomma, siamo riusciti a scalfire un po' il muro del blackout che voleva imporre il silenzio sulla vicenda. Soprattutto, evidentemente, abbiamo fatto in modo che ai colloqui ci andassero quei compagni che erano nelle condizioni più brutte, nelle condizioni peggiori fisicamente. Quindi la gente che era stata più massacrata. Poi, a loro volta, i parenti si sono dati da fare, hanno cercato di fare passare queste notizie sulla stampa. I primi giorni sono stati qualcosa di molto duro, sul piano della semplice sopravvivenza. Dentro queste celle, dove non c'era niente, però piano piano ci siamo organizzati per riuscire a vivere anche in quelle condizioni e abbiamo anche ricominciato a lottare, un'altra lotta che aveva come obiettivo di uscire da quelle condizioni bestiali in cui eravamo ridotti a vivere. Così, in 10, in quelle celle, e questa lotta invece di essere soffocata, come poteva essere facilmente soffocata in queste condizioni in cui eravamo, è riuscita nel senso che dopo i primi giorni, in cui era stata abolita addirittura l'ora d'aria, la direzione ha dovuto concederci l'aria, scaglionandoci a gruppi e concedendoci l'ora d'aria. La rivolta era stata una fiammata che aveva bruciato tutto. Tutta la forza che avevamo accumulata si è bruciata dentro la rivolta. Quindi adesso si trattava di rimetterci passo dopo passo per riprenderci tutto quello che avevamo perduto. E ovviamente i primi passi erano quelli di garantirci una migliore vivibilità all'interno del carcere. Vivibilità vuol dire tante cose. Vuol dire per esempio lottare per riavere i colloqui, perché i colloqui sono la comunicazione con l'esterno, vuol dire lottare per riavere le ore d'aria, perché oltre a essere la cosa fisicamente indispensabile, che è uscire in un cortile almeno un'ora o due al giorno, andare all'aria vuol dire anche la ripresa della comunicazione interna coi compagni. Siccome eravamo tutti sistemati al piano terra, era possibile un minimo di comunicazione, perché anche se le blindate erano chiuse, gli spioncini erano aperti. Quindi la gente, urlando dagli spioncini nei corridoi, si comunicavano le cose. La direzione aveva abolito addirittura la funzione del lavorante, per impedire che ci fosse tra noi la circolazione delle informazioni e del dibattito sul da farsi. Ormai nei corridoi circolavano soltanto le guardie, però attraverso le urla, attraverso i bigliettini che si riuscivano a fare passare di cella in cella, la discussione riusciva a essere collettiva. Poi, una volta che è stata ristabilita l'ora d'aria, tutto questo è diventato più semplice. Dopo un po' ci hanno permesso di farci la barba. Potevamo farcela con un rasoio di plastica che ci davano ogni volta e che dovevamo consegnare subito dopo, indietro. Potevamo usare solo il sapone normale e non avevamo specchietti, e così ci radevamo tra noi uno con l'altro a vicenda. E nella mia cella poi c'era un compagno che aveva tutte e due le mani ingessate e non poteva fare niente, e noi dovevamo togliergli le scarpe, i pantaloni, il maglione la sera per andare a letto e rivestirlo la mattina. Dovevamo imboccarlo quando mangiava, lavarlo, pulirlo e lavargli il culo quando cagava. Tutto dovevamo fargli. E lui diceva sempre: grazie compagno, grazie compagni. I rapporti con le guardie erano cambiati, perché nei pochi momenti che le guardie sfuggivano al controllo dei graduati, dei brigadieri e dei marescialli, che almeno uno di loro era sempre presente nei corridoi, quando per un momento capitava che non c'era nessun graduato, le guardie ci parlavano e continuavano a ripeterci che loro non avevano fatto il massacro, che loro non c'erano, che non avevano avuto nessuna parte in quel massacro, che c'era stato e che anzi non erano assolutamente d'accordo con quello che era successo e dicevano addirittura che tutte le guardie che avevano partecipato a quel massacro erano state trasferite. Però evidentemente questo non era assolutamente vero e ci sono state diverse occasioni nelle quali i compagni hanno creduto di identificare alcune guardie che stavano nel corridoio, che facevano servizio e erano sicuri che erano state tra le guardie che ci avevano picchiato. E ci sono stati anche momenti di tensione. Ogni tanto scoppiava un casino quando qualcuno credeva di identificarne uno di quelli che ci avevano picchiato. Perché allora a quelli che avevano preso più botte gli andava il sangue alla testa e allora partivano le minacce pesanti e cose così. È naturale, un giorno un compagno che era sicuro di aver identificato uno dei suoi picchiatori gli ha detto: stai tranquillo che un giorno ti vengo a prendere anche se ti nascondi sottoterra e ti taglio la testa. La reazione del brigadiere che arrivava nel corridoio proprio in quel momento è stata quella di trasferire immediatamente in un altro posto questa guardia minacciata per fare sbollire la cosa. Però poi di questa cosa, di queste minacce, loro se ne sono ricordati. Poi, perché tutti questi compagni che durante quei giorni hanno fatto minacce alle guardie, tutti quei compagni, quando nelle settimane e nei mesi successivi è arrivato il momento che sono stati trasferiti in un altro carcere, allora sono stati pestati duro, un'altra volta, perché funziona sempre così in carcere, non sempre le reazioni sono immediate, dipende sempre dal momento, dipende dal rapporto di forza, magari succede che delle cose te le fanno pagare anche molti mesi dopo. Le guardie calcolano che a volte non è il caso di fare pagare, di picchiare uno subito a caldo, perché ci sarebbe immediatamente la reazione di solidarietà di tutti gli altri detenuti e allora scoppierebbe il casino generale. È molto più comodo per loro segnare il nome sul libro nero, dopodiché il giorno che arriva il giorno del trasferimento e questo viene tolto dalla cella perché parte per un'altra destinazione e non tornerà più in quel carcere almeno per un bel po' di tempo, allora lo si picchia. Ecco, Sono successe anche cose di questo genere durante quei giorni, però il clima in generale era molto alto, il morale di tutti i compagni era molto alto e quella è stata una verifica della grande solidarietà che c'era tra tutti i compagni, al di là delle posizioni politiche differenti. Comunque, durante le prime giornate che abbiamo passato dopo la rivolta, in queste celle senza niente, tutti quanti lì ammucchiati in quelle condizioni, le prime cose appunto che sono state fatte sono state quelle di badare a curarsi le ferite e curare i compagni che stavano peggio. E soprattutto si temeva ancora molto un altro intervento di massacro da parte delle guardie, perché noi avevamo ripreso a lottare e così i compagni hanno pensato bene di darsi almeno un minimo di armamento difensivo, che consisteva nel procurarsi almeno degli oggetti contundenti, cosa non molto facile, perché nelle celle non avevano lasciato niente, non avevano lasciato proprio niente, neanche degli sgabelli, dei tavoli, niente. Quindi le prime cose che sono state prese d'assalto sono state le finestre, che sono state letteralmente smontate sotto gli occhi stessi delle guardie, e da queste finestre sono state ricavate delle sbarre di ferro. E in quei primi giorni le guardie, pur vedendo tutto questo, non solo non intervenivano quando vedevano quello che si faceva, ma non si azzardavano nemmeno a entrare più nelle celle. Cioè, era stata sospesa la conta, l'entrata nelle celle di un gruppo di guardie per contare i detenuti. Le guardie si limitavano a contare aprendo la blindata e contare a vista, dal cancello, però erano perfettamente coscienti che nelle celle esisteva questo armamento, perché lo vedevano che le finestre erano smontate. Ma nel momento in cui ci hanno concesso di riavere l'ora d'aria, ovviamente si è pensato che la mossa era quella di fare in modo che le celle rimanevano vuote e che nell'ora d'aria le guardie sarebbero entrate e avrebbero ripulito le celle di quelle sbarre. E allora lì la contraddizione era per noi, se andare all'aria e lasciare le celle incustodite, permettendo alle guardie di entrare e di disarmarci, oppure se dovevamo scegliere di rinunciare all'aria, il che voleva dire rinunciare soprattutto alla comunicazione interna tra di noi. Ma indubbiamente la cosa più importante era la comunicazione. E infatti, come ci si aspettava, le guardie hanno colto l'occasione dell'ora d'aria, appena ce l'hanno di nuovo concessa, per precipitarsi nelle celle e fare una perquisizione generale, sequestrando tutto il nostro armamento, le sbarre e tutto il resto. Da quel momento è cominciata una pressione da parte dei compagni, una pressione per uscire da quelle condizioni. Però in quelle condizioni non c'erano molte cose da fare. La cosa meno produttiva da fare, viste le condizioni, era di sequestrare altre guardie, visto come era andata l'esperienza precedente. Perché se questi erano intervenuti, anche se avevamo 19 guardie sequestrate, questo voleva dire che erano disposti a accettare quel terreno di scontro, mettendo in conto anche l'eventualità di fare dei morti. Le condizioni in cui ci trovavamo erano molto dure e dovevamo assolutamente venirne fuori, e l'unica soluzione per venirne fuori era lottare, ma doveva essere una lotta produttiva. E in quelle condizioni in cui eravamo, dovevamo inventare una forma di lotta nuova, originale. Dovevamo riuscire a lottare con le sole armi che avevamo a disposizione e prima di tutto dovevamo inventare che cosa poteva diventare un'arma, visto che non avevamo niente, ovviamente. Era stata abolita la spesa, erano stati aboliti tutti gli acquisti possibili di cibo. Il cibo che passavano era quello dell'amministrazione. Una brodaglia liquida rossastra che veniva distribuita a mezzogiorno e alla sera con delle gavette di plastica e dei cucchiai di plastica. E allora si è cominciato a fare una pressione, a chiedere di poter acquistare alla spesa almeno alcuni generi alimentari, roba che si poteva consumare senza essere cucinata, roba elementare come latte, biscotti, frutta e roba del genere. Perché comunque era fuori discussione che questi ci mollassero il fornelletto e il pentolame e altro. Siamo riusciti a ottenere di acquistare questa roba e la possibilità di acquistare la spesa del cibo ha costituito il retroterra per questa lotta, perché a questo punto noi potevamo fare a meno di consumare il vitto dell'amministrazione. E il vitto dell'amministrazione è diventato così l'arma di questa lotta, perché ogni giorno accumulavamo nelle celle litri e litri di questa brodaglia rossastra, e poi, a un certo punto, al momento convenuto, tutti quanti insieme versavamo nel corridoio tutta quanta questa brodaglia, un vero fiume di brodaglia, liquida, rossastra, nauseabonda, che da tutte le celle si riversava nel corridoio. E questa è diventata la cosiddetta guerra batteriologica. Le guardie che stavano nel corridoio erano praticamente raddoppiate perché dovevano essere in condizione di controllarci visivamente, minuto per minuto. Quindi c'erano sempre moltissime guardie nel corridoio, stavano lì sempre in gruppi folti e numerosi. Eravamo al pian terreno che non era neanche molto areato, e allora il fatto di versare tutta quella brodaglia nauseabonda nel corridoio creava evidentemente un certo disagio per le guardie, e stare nel corridoio era diventato praticamente insopportabile. Allora le guardie hanno pensato bene di fare la cosa più naturale, cioè di fare intervenire i lavoranti dello speciale per ripulire il corridoio, ma i lavoranti hanno naturalmente rifiutato per solidarietà con la nostra lotta, dicendo: noi non andiamo a pulire, questa è una forma di lotta, mica siamo dei grumire e ci mettiamo contro una lotta di altri detenuti. I lavoratori si sono rifiutati di ripulire il corridoio da tutta questa brodaglia che restava lì e ogni giorno si accumulava sempre di più. E noi abbiamo cominciato a buttare fuori non soltanto la brodaglia, ma anche tutti i tipi di rifiuti che venivano accumulati. Si è cominciato anche a cagare nei sacchetti di plastica e di carta o nei giornali e a buttarli fuori dagli spioncini nel corridoio. La nostra guerra era proprio una vera guerra batteriologica, nel senso che con questa montagna di sporcizia e di rifiuti, di escrementi che si accumulava ogni giorno di più, lì nel corridoio si rischiava ormai il pericolo di malattie e di epidemie. C'era il pericolo di epatite virale e cose di questo genere. Noi correvamo il rischio di questo pericolo, ma lo correvano anche loro. Allora le guardie si sono rivolte ai lavoranti del giudiziario, non più a quelli dello speciale. Ovviamente sono andati a ramazzare gli infami tra i lavoranti del giudiziario, sono andati a ramazzare gli infami e tutti i venduti, le spie, al servizio della direzione, e li hanno fatti entrare nel nostro corridoio per ripulirlo. Allora, appena questi sono arrivati lì, da dentro le celle, da dietro gli spioncini, tutti i compagni abbiamo urlato insulti, abbiamo urlato minacce, dicendo: se voi state qua e pulite la sezione, il giorno che ci tolgono da queste condizioni la pagherete, e la pagherete cara. È stata sufficiente questa minaccia perché questi scappassero immediatamente, via tutti quanti, e quindi le guardie si sono ritrovate punto e a capo. La situazione era diventata ormai piuttosto pesante, era diventata insostenibile, perché le guardie non potevano abbassarsi al ruolo di quelli che con la scopa in mano puliscono i corridoi, perché quello non era il loro compito, non era il loro ruolo, e mettersi loro a pulire voleva dire cedere, però dall'altra parte effettivamente cominciava a accumularsi troppa merda nel corridoio. E questi qua rischiavano effettivamente di prendersi qualche infezione, qualche epatite. C'era il rischio che lì scoppiava effettivamente un'epidemia. Erano costretti a girare ormai con un fazzoletto sulla faccia. Stavano nel corridoio con un fazzoletto sulla faccia. Ti venivano ad aprire la cella con un fazzoletto sulla faccia. Finché non hanno pensato a una soluzione di forza. Il Ministero ha pensato di forza di risolvere la situazione mandando all'interno del carcere una ditta esterna addetta alle pulizie. Hanno fatto un contratto, hanno pagato lautamente una ditta esterna, un'impresa che funziona esattamente come funziona qualsiasi altra impresa che lavora sul carcere, come un'impresa edile o un'impresa di fabbri o un'impresa di elettricisti. Quando ci sono dei guasti e questa Era un'impresa di pulizie e quando l'impresa è arrivata le guardie hanno chiuso di colpo tutti gli spioncini delle blindate e nel giro di un paio d'ore questi dell'impresa, con tutta quanta la loro attrezzatura di pulizia e di disinfezione, hanno ripulito via tutto quanto. Libri ribelli. Libri ribelli.